l'emergenza abitativa che attanaglia la nostra città ormai da tempo sta iniziando a propagarsi. Sono decine e decine le famiglie rimaste senza casa in questi ultimi 3 mesi, sono famiglie lavoratrici, persone che un affitto riuscivano a pagarselo, che però si sono trovati di fronte a sfratti per finita locazione per la maggior parte dei casi. Oggi quindi si è deciso di entrare con un progetto di autorecupero come cooperativa di abitanti all'interno di un immobile vuoto da decine di anni, molti veramente appartamenti lasciati lì all'incuria, all'abbandono da diverso tempo, per costruirci un progetto, come dicevo prima, un progetto di autorecupero. Autorecupero per noi è un progetto che può portare aria e respiro a decine e decine di famiglie in questa città qua. Abbiamo detto che deve essere lo sfitto, deve essere vero all'interno delle case popolari, deve essere sfitto anche tra il privato, e l'autorecupero è un metodo, un modo, una pratica che può essere messa in campo direttamente dagli inquilini, direttamente dagli abitanti, per risistemarsi appartamenti molto spesso lasciati vuoti da molto tempo, ma che prevedono magari piccoli lavoretti da farci al proprio interno, come quelli appunto appena adesso qua in via Carrazzi 63. E da qua appunto vogliamo partire per farci riconoscere la pratica autorecupero, una nuova normativa, una nuova legislazione come già esiste nella regione Lazio, come già esiste nella regione Toscana, per iniziare a dare respiro alle decine e decine di famiglie che in questa città non riescono a trovare un tetto sulla propria testa. Di chi era proprietà di questo stabile? La proprietà era in funzione in mano ad Acer, che aveva messo l'immobile in alienazione, quindi l'immobile doveva essere venduto. Dopo l'occupazione, i passaggi che abbiamo fatto qualche mese fa con via Raimondi, avevamo segnalato questa incongruenza, cioè la richiesta forte di case popolari nella nostra città e dall'altra invece la vendita di patrimonio pubblico. Quindi subito dopo l'immobile il comune l'ha tolto dal piano di alienazione e oggi crediamo che sia ritornato nelle funzioni del pubblico di Bologna, quindi del comune. Nel comunicato in cui annunciate appunto la nascita di questo progetto, dite anche una casa per amare. Sì, una casa per amare, questo è lo slogan, lo hashtag che abbiamo utilizzato oggi in vista delle prossime manifestazioni che ci saranno qua a Bologna insieme a tante altre realtà sulla questione del diritto alla casa, dei servizi e sulle varie questioni di genere che attanagliano, ripetiamo, la questione della violenza con cui molte donne si ritrovano a rimanere senza casa, non ultimo il suicidio avvenuto proprio qualche giorno fa nella nostra città di una madre, una giovane madre che si è ritrovata uno sfratto alle porte, un ufficiale giudiziario pronto a intervenire che ha fatto un drammatico gesto di lasciare la propria vita, ai 4 bambini qua nella nostra città. Noi facciamo anche un appello partendo da questo, dicendo alle decine e decine di famiglie che stanno a cui sta arrivando le lettere del tribunale, dall'UNE, per gli ufficiali giudiziari alle porte, di non lasciarsi andare. I nostri sportelli sono aperti, gli sportelli per il diritto all'abitare ci sono, possiamo unirci, possiamo fare forza per andare a pretendere un diritto, che è quello di una casa, che dovrebbe essere un diritto sancito ma che purtroppo molto spesso fa declinare nella disperazione centinaia e centinaia di persone anche qua a Bologna. Quindi l'appello che vogliamo fare, una casa per amare, l'hashtag che abbiamo utilizzato oggi è anche declinato in questa funzione qua, senza poi dopo naturalmente dimenticarsi la prossima settimana, una grande manifestazione sabato prossimo a cui parteciperemo come lavoratrici, come lavoratori, come occupanti di case, come progetto di autorecupero e radical housing, per portare al nostro punto di vista di cosa vuol dire oggi violenza di genere, di cosa vuol dire oggi non vivere e non avere la possibilità di avere un tetto sulla propria testa.